Dietro la notizia con Gigi Donelli. Sono le 8.30, ancora un buongiorno e un buon anno da Gigi Donelli. Dunque, il discorso di fine anno, è durato poco più di 14 minuti, uno stile sobrio che corrisponde perfettamente al profilo del nostro presidente. Così, insomma, Napolitano, al terzo anno da inquilino del Colle, ha invitato gli italiani a non abbandonarsi al pessimismo, ma a reagire con coraggio. Molti temi trattati in apertura. Proprio nelle prime parole il riferimento alla crisi, alle violenze in Medio Oriente, poi però molte parole delle nove cartelle dedicate alla crisi, alle famiglie italiane. La parola chiave del discorso sicuramente è stata quella di crisi, ripetuta 8 volte, crisi però declinata come occasione di rilancio. E proprio intorno, come dire, ai meccanismi, alle possibilità di rilancio che il Presidente della Repubblica vede in questa crisi e in questo 2009. Oggi parliamo con Stefano Folli. Buongiorno Folli. Dunque, Stefano Folli che scrive questa mattina in prima pagina su Sole 24 Ore l'editoriale Coesione Nazionale premessa per il riscatto. Quindi facciamo della crisi un'occasione, è stato un po' quasi un mantra, sembrava quasi di sentire il Yes We Can delle elezioni presidenziali americane, Folli. Sì, era una sorta di parola d'ordine, secondo me molto azzeccata, intanto perché quello che dicevi tu adesso, cioè che c'è uno stile molto sobrio, che è tipico di Napolitano e che era molto adatto alla circostanza. E poi perché Napolitano, senza cedere naturalmente al pessimismo che è molto diffuso in questo momento, però al tempo stesso ha fatto un discorso molto realistico, cioè privo anche di quell'ottimismo di maniera che è l'altra faccia della medaglia e che è altrettanto dannoso. Ha fatto un discorso realistico dicendo, insomma, siamo in una situazione che crea grandi problemi sociali ed economici al paese, dobbiamo uscirne con le nostre energie, come è stato nei grandi momenti della storia italiana, perché gli italiani hanno questo patrimonio di energie positive che può essere acceso nei momenti topici. Quindi dobbiamo farlo, e dobbiamo farlo attraverso uno sforzo che è anche di coesione nazionale. Quindi io credo che abbia toccato il Presidente della Repubblica la corda giusta, perché in questo momento io credo che l'Italia abbia bisogno soprattutto di coesione nazionale, e lui ha saputo spiegare in che cosa consiste oggi questo sforzo di unità. Ci sono stati naturalmente i commenti, le immediate telefonate, per lo più come vuole anche in parte la forma di approvazione, di rispetto. Forse vale la pena citare un po', quantomeno perché a contrario questa mattina da Libero solo Vittorio Feltri, che sostanzialmente definisce una barba infinita che sarebbe ora di tagliare con altri sprechi, quello del discorso del Presidente della Repubblica. Però effettivamente se c'è un elemento che non ritrovo in questo discorso, in questi poco più di 14 minuti, è l'idea dello spreco, è qualcosa di avere parlato per forma. Tu dicevi non c'è stata nessuna ricerca di quell'ottimismo di facciata, appunto, e di forma, che spesso ha l'effetto opposto, anzi di irrigidire l'ascoltatore. Qui non c'era. No, Vittorio Feltri fa bene dal suo punto di vista a criticare, perché questi discorsi hanno sempre l'effetto così di creare una sorta di grande consenso che dura poco, naturalmente. Lui sceglie subito di rompere questa coltre di consenso e di prendere una posizione eterodossa. D'altra parte è vero che il consenso che si registra il 2 gennaio è quasi sempre molto effimero, cioè le forze politiche dicono benissimo, bravo il Presidente, giusto il richiamo alla coesione nazionale, sottolineo coesione nazionale che non è politica, cioè non è che Napolitano chiede un governone con tutti dentro, chiede una coesione di tipo morale, no? Chiede che ci sia il senso del bene comune, il senso del fatto che gli italiani sono parte di una stessa patria e devono quindi concorrere insieme a uscire dalle nostre difficoltà attuali. Però dico, le forze politiche danno questo consenso un po' di maniera il giorno dopo e poi non cambia quasi nulla. Questo purtroppo è vero, infatti ho scritto nel pezzo sul Sole 24 Ore è un po' l'omaggio che il vizio rende alla virtù. Detto questo, però, io credo invece che questi appelli del Presidente della Repubblica servano perché Napolitano, forse mai come quest'anno, ha parlato ai cittadini, non ha parlato ai politici, e gli italiani devono capire che molto dipende dalla politica per uscire dalla situazione in cui siamo, molto dipende dal contributo che ognuno può dare. Ecco, questo è un altro elemento forte, ancora questa mattina non so se sono nelle mie orecchie che risuonano evocazioni americane, ma mi trovo a ripensare ancora una volta a un messaggio americano e keynesiano, cioè quello del contributo, non aspettate che le cose siano fatte, italiani datevi certo. Da fare. Esattamente, c'era questa evocazione addirittura rooseveltiana, no? Non dobbiamo aver paura di nulla se non della paura stessa, cioè ripeto, è un richiamo alle energie, ognuno di noi è in grado di attivare se stesso, di contribuire per la sua parte naturalmente a una grande impresa comune, cioè in fondo è un invito a ricordarsi che esiste il bene comune, purtroppo questo è qualcosa che si è perduto abbastanza nel nostro paese negli ultimi anni, ma esiste un bene comune a cui ognuno può contribuire. Questo è un elemento secondo me anche di novità nel discorso presidenziale, il quale naturalmente è soltanto un discorso, è evidente certo. Che è un discorso, non è che il Presidente della Repubblica non ha poteri operativi, però io credo che abbia interpretato il suo ruolo morale, il suo ruolo di garante dell'unità nazionale in una chiave piuttosto innovativa e moderna. Il fatto che la Lega stessa abbia applaudito questo discorso vuol dire che ha compreso bene che quel richiamo alla coesione nazionale non è un modo per interferire, che so io, nel dibattito del federalismo o altro, che è nel piccolo del cabotaggio della politica quotidiana, ma è un richiamo morale. Insomma, poi, si volava più alto, come peraltro scrive. Sì. Mi sembra che si volasse più alto. Napolitano è stato molto attento a non interferire nelle questioni della politica quotidiana, però ha cercato di far capire, questa volta ai politici più che ai cittadini, che il nostro bipolarismo, che può essere una bellissima cosa, ma non può essere poi soltanto una rissa quotidiana. Il bipolarismo deve servire a trovare punti di intesa, anche larghi punti di intesa, sulle questioni essenziali della vita del paese. Le riforme di cui tanto si parla e non si fa quasi mai nulla, sono uno di quei momenti in cui il paese dovrebbe ritrovarsi relativamente unito, perché le riforme, quelle che toccano la Costituzione, andrebbero approvate con veramente una convergenza larga in Parlamento. Ecco, a proposito del momento in cui Napolitano ha parlato della responsabilità, del senso di responsabilità pubblica, c'è stato persino, credo, l'unico gesto anche fisico di un presidente altrimenti compostissimo, che ha stretto la mano, il pugno di fatto, come a sottolineare quanto questo elemento sia importante e sia ovviamente trasversale, cioè la responsabilità, il fatto che la cosa pubblica ritorni maggiormente al centro appunto della vita politica, al di fuori del piccolo capotaggio. Lì si è visto un Napolitano quasi rabbioso. Beh sì, certo, è quello che stiamo dicendo, insomma, esiste il bene pubblico ed è un patrimonio indisponibile che non può essere, come dire, piegato all'interesse strumentale di questa o quella parte politica, o tantomeno a interessi di parte. Quindi il bene pubblico è un patrimonio morale che appartiene alla nostra nazione e che appartiene ai cittadini, e quindi i politici in questo senso dovrebbero riscoprire in se stessi quel senso di servizio pubblico, no? Gli anglosassoni dicono public servant, qualche cosa che il senso che si serve lo Stato, si serve la nazione, ed è anche questo è chiaramente un aspetto morale profondissimo, importantissimo, che purtroppo si è un pochino perso, forse molto perso nel nostro paese, e anche qui c'è un richiamo che non urta le suscettibilità politiche, perché non è una critica rivolta a questa o a quella parte politica, ma è un richiamo generale alla maggioranza come all'opposizione di mettere un po' da parte, diciamo, alcuni aspetti deteriori della politica quotidiana, diciamo pure della piccola politica, per riscoprire il senso del bene collettivo. E in questo modo c'è stata veramente una forma di rivendicazione. Allora Stefano Folli resta con noi e vorrei chiederti tra un momento, anche come dire, dal discorso alla prospettiva, anche all'agenda annuale, quali speranze poi questo messaggio e in quali forme potrà essere accolto. Prima però vorrei dare anche spazio e naturalmente salutare con Luigi che ci chiama da Torino tutti i nostri ascoltatori che, lo ricordo, possono intervenire all'800 24 00 24. Buongiorno dunque Luigi. Buongiorno, volevo intervenire. Prego, ci dica. Buongiorno, volevo intervenire brevemente sul discorso del Presidente della Repubblica. Che lei ha sentito in diretta? Ho sentito ed ho letto due volte. Ok. L'ho apprezzato moltissimo per la prima volta, non perché non apprezzi il nostro Presidente, al contrario, ma l'ho apprezzato per il contenuto sintetico e mirato e perché non ha usato quella benedetta parola auspico, cioè è stato chiarissimo. Ha mandato, per i punti che ha toccato, dei messaggi forti. Questa è l'osservazione in merito al discorso del Presidente. Quindi 14 minuti precisi, chiari, come ci spiegava, sì, appunto, su cui rifletteva Stefano Folli. Ecco, un complimento anche a Stefano Folli. Mi piace moltissimo quello che ha detto, perché è condivisibile esattamente il pensiero, il mio e di alcuni miei colleghi. Volevo solo fare un inciso, ma non in tono polemico, ma in tono realistico, che è questo: il Presidente giustamente dice con chiarezza ai politici: smettetela di litigare, preoccupatevi dei problemi del Paese. E così volevo rivolgere a Stefano Folli solo il mio pensiero, che in fondo condivide il suo, ma riusciamo a credere veramente che con questa situazione politica, con questa classe, non tutta, sia fattibile, si possa raccogliere questo? O a partire da domani, dopodomani si ricomincia con la politica da cortile? Questa è la mia preoccupazione. Grazie. Prego Luigi, concluda. No, niente, dicevo, nonostante la crisi, possiamo veramente credere che questi politici, non tutti, ribadisco, possono veramente raccogliere in modo adeguato e agire secondo coscienza, secondo quanto il Presidente ha indicato? Grazie Luigi da Torino, ringrazio. Beh, certo, come il discorso è una cosa, ciò che accade è un'altra. Allora Folli, insomma, quante speranze e come può essere accolto? Ma quello che dice Luigi, lo scetticismo di Luigi è anche il mio, lo dicevo prima, certo. E tutti questi consensi del giorno dopo sono quantomeno sospetti. L'esperienza del passato ci ha insegnato che in genere, diciamo, il momento virtuoso di Capodanno dura lo spazio di un brindisi. È finito. Ma non lo so, adesso, naturalmente. Io penso questo, che il napoletano ha colto bene un punto, cioè che il 2009 è davvero un momento cruciale per la capacità di rinnovamento del nostro paese, perché si intrecciano due cose: questa crisi economica molto grave, che toccherà soprattutto nel 2009, diciamo, la vita degli italiani, e da questo punto di vista trovo molto azzeccato questo slogan: facciamo della crisi un'occasione. E al tempo stesso la necessità, l'urgenza direi, proprio di metter mano al rinnovamento complessivo della macchina statale, del nostro Stato, delle nostre istituzioni, discorso che va avanti da molti anni, che ha prodotto poco, ma che quest'anno, in qualche modo, proprio perché si uniscono questi due filoni, questi due fattori, quest'anno deve dare dei risultati. Se si perde anche quest'anno, probabilmente poi si entra in quel meccanismo per cui diciamo, la legislatura si considera già non più vitale. Siamo ancora all'inizio della legislatura, il momento di fare qualche cosa è questo. Se si perdono altri 12 mesi, probabilmente poi è troppo tardi. Allora, il punto è questo, che i politici tendano a un litigio permanente è abbastanza inconcludente, ormai lo sappiamo, che il discorso di Napolitano è uno sprone, è un invito alla concretezza, ma non basta ancora, e questo è evidente. La speranza è che per un insieme di circostanze che sono abbastanza eccezionali e che ricorrono adesso, in questo inizio d'anno, ci sia una presa di coscienza che non si può perdere altro tempo, che ci sono alcuni punti essenziali che vanno affrontati, che non è soltanto come affrontare la crisi economica, la crisi sociale che incombe, ma anche come rinnovare in questo momento e non in un futuro indistinto le nostre istituzioni che hanno effettivamente bisogno di essere ammodernate per tenerci ancorati all'Europa. Rinnovare le nostre istituzioni, già un elemento centrale, direi ricorrente. Vorrei chiederti subito dopo gli aggiornamenti che ora mandiamo sul traffico, quali segnali in qualche modo possiamo legittimamente aspettarci di vedere in questo 2009 per avere, come dire, la misura degli eventi e del cambiamento in corso, se effettivamente ce ne sarà spazio. Tutto questo tra un momento. Io vi ricordo intanto l'800 24 00 24, il numero verde di Radio 24 per partecipare in diretta. Adesso sentiamo per un minuto e mezzo come vanno le cose sulle strade italiane. Dietro la notizia. 8:47 minuti, ancora un buongiorno da Gigi Donnelly. La coesione nazionale premessa per il riscatto è il titolo questa mattina sul Sole 24 Ore del commento di Stefano Folle. Ancora 10 minuti insieme a lui e agli ascoltatori per riflettere sul discorso di fine anno. Prima degli aggiornamenti appunto sul traffico, chiedevo a Stefano Folle di darci un'indicazione su quali segnali possiamo tenere d'occhio per vedere se, diciamo, dalle parole si potrà passare ai fatti di un cambiamento e di un rinnovamento. Ma io credo questo, detto in estrema sintesi perché il tempo è veramente poco, io credo che ci sia la necessità di ridurre il costo grandioso, enorme, sterminato della nostra macchina statale, in modo tale da favorire, riducendo il costo, una maggiore efficienza e avere delle risorse da destinare invece a quella necessità di lotta alla crisi economica, alla disoccupazione, per favorire opere pubbliche che sono indispensabili. Per tutto questo occorrono delle risorse, queste risorse vanno risparmiate sul costo di una macchina molto grande e inefficiente. Ci sono tante sacche di una spesa probabilmente inutile perché deriva, diciamo, da un assetto che via via negli anni è stato superato e che quindi merita di essere ammodernato. Il federalismo, di cui si parla tanto, compreso il federalismo fiscale, che è un po', diciamo, la punta di lancia, potrebbe essere una bellissima cosa, purché non si cada nel solito vizio italiano, cioè di moltiplicare le spese anziché ridurle. Il federalismo, così come viene prospettato, lo ha detto anche il Presidente del Consiglio in un'intervista, dovrebbe consentire un grande risparmio di spese, proprio perché vengono razionalizzate, diciamo, queste spese attraverso questo decentramento virtuoso. Tutto questo è molto bello se poi si realizza realmente. Purtroppo l'esperienza ci insegna che spesso le riforme in Italia costano di più, non di meno. Costano molto nella fase, diciamo, attuativa e poi mantengono nel tempo una duplicazione delle spese. Questo sarebbe una disfatta storica in questo momento di grande crisi del paese. Quindi io credo che la capacità delle politiche sarebbe proprio quella di riuscire a individuare come riformare il paese risparmiando delle risorse da destinare a usi sociali. Ecco, i discorsi chiaramente sono simboli e contengono degli elementi simbolici, ma anche le decisioni, le iniziative. Allora, secondo te, in questo anno che verrà si potrà profilare per esempio la riduzione complessiva del numero importante di deputati, senatori, parlamentari europei, cioè di quella struttura di vertice da cui poi discende un'enormità del sistema pubblico italiano? Ma sì, certo, ci sono questi elementi che sono fondamentali. Purtroppo spesso sono delle bandiere mediatiche, servono per avere dei titoli sui giornali, servono per alimentare dei dibattiti televisivi. Manca, e questo credo sia un altro degli elementi che il Presidente della Repubblica ha richiamato nel suo discorso, manca una visione generale dell'interesse del Paese, quindi una visione politica, e quella visione politica che in passato c'è stata, ecco perché credo anche il richiamo, diciamo, al grande sforzo che ci fu dopo la Seconda Guerra Mondiale per far risorgere l'Italia, perché allora c'era una visione del Paese, non era una visione condivisa pienamente, evidentemente, da maggioranza e opposizione, però nei punti cardine io credo che la maggioranza di allora e l'opposizione, che era costituita da un forte partito comunista sui punti di fondo, al di là diciamo delle grandi polemiche, ma sui punti di fondo c'era un sentimento comune, c'era l'esigenza comune di far ripartire lo sviluppo. Ecco, credo che oggi ci sia bisogno di questa visione, meno uscite propagandistiche sui giornali, più capacità di lavorare insieme in Parlamento, anche evidentemente nella divisione dei ruoli politici, ma per perseguire un obiettivo comune. Ancora qualche minuto insieme, diamo allora un saluto, un altro ascoltatore ci chiama da Genova, Lino, buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie, poche spicce. Invece di tante parole, comincino subito i parlamentari a ridursi lo stipendio e le spese anche dei pensionati del Parlamento, perché abbiamo un Parlamento che ci costa molto di più degli altri Stati europei e questo, visto la qualità del lavoro che producono, è ingiusto e sbagliato, visto che si vuole appunto dare anche un esempio di coesione morale. Dovrebbero essere tutti d'accordo nel ridursi le spese. Grazie. Grazie, chiarissimo Lino da Genova. Beh, stavamo giusto parlando di questo complesso. Beh, sì, adesso poi diciamo se si parla di iniziative simboliche, ce ne possono trovare mille. Il punto di fondo è che l'ascoltatore ha ragione su un punto, cioè che la coesione nazionale è fatta anche di segni morali, no? Di segni che siano comprensibili, percepibili diciamo dall'opinione pubblica e che abbiano una loro carica morale. Questo credo che sia necessario, questo è un altro degli elementi che si è perso, cioè in attesa di grandi riforme, che richiedono naturalmente poi dei tempi tecnici, questo è evidente, in attesa di far maturare questa visione il più possibile larga e condivisa del futuro del Paese, forse già qualche segno che abbia un suo valore morale evidente non sarebbe male. Un segno che possa in qualche modo avere anche la chiarezza discorso, che sia chiaro, certo. Come questo discorso. Ecco, in conclusione, una riflessione su questo clima che in qualche modo si diffonde attraverso discorsi di personalità diverse, mi riferisco a quelle coincidenze tra Napolitano, Ratzinger, Angela Merkel, quindi un clima e una esigenza di cambiamento profondo all'interno dell'Europa basato proprio sulla sobrietà, sulla ricerca un po' di quei valori o almeno una parte di quei valori del dopoguerra. No, dici bene, questo è un elemento importante, il fatto che ci sia stata questa sintonia di fondo tra personaggi che occupano evidentemente ruoli molto diversi, ma che riflettono un po' tutti il senso di un'Europa che anche l'Europa come l'Italia deve trovare in questa crisi un'occasione per ritrovarsi più unita, per riuscire a esprimere una voce comune sui grandi temi della crisi globale. L'Europa ha delle potenzialità enormi, se solo riuscisse a far convergere gli sforzi e a dimostrarsi quell'attore sulla scena mondiale che ha la possibilità di essere. L'Europa ha una potenza in questo momento molto grande ma completamente inespressa. Il fatto che ci sia stata questa sintonia e che il Papa anche abbia usato dei termini che particolarmente diciamo che capaci di suscitare un'attenzione anche tra i non credenti, proprio per il taglio che il Papa ha dato alla sua analisi, alla sua lettura della crisi, questo è un elemento, secondo me, abbastanza positivo che aiuta un minimo di speranza all'inizio di questo anno. Grazie a Stefano Folli per essere stato con noi questa mattina, naturalmente anche a lui gli auguri di buon anno. Dunque, l'Europa, nelle ultime riflessioni di Stefano Folli, si evocava quel gigante economico nano politico di cui abbiamo sentiamo parlare e che ritorna di attualità proprio in questi giorni, se lo vogliamo porre su un duplice binario: da un lato i 10 anni della moneta unica sempre più forte, proprio ieri l'allargamento ulteriore alla Slovacchia, uno stato che addirittura di fatto uno stato così giovane e che aderisce all'euro, dall'altro una crisi medio orientale in cui il ruolo dell'Europa fatica ad emergere, proprio anche di questo elemento, di questa ruolo politico che il continente europeo deve assumere. Parleremo tra poco a viva voce, questa mattina condotto da Simone Spezia. Sarà l'occasione per collegamenti con Gerusalemme e i territori palestinesi, ma anche per riflessioni su questa nuova crisi. Io per ora vi saluto, l'appuntamento con Dietro Notizie è a lunedì. Parleremo proprio dell'euro, di questa formidabile avventura, delle complessità, delle difficoltà, ma si può senz'altro dire a 10 anni di distanza di questa formidabile avventura dell'euro che noi stiamo di fatto vivendo, condividendo. Un saluto a tutti e l'appuntamento con Dietro la Notizia è alle 8:30 di lunedì.